rassegna stampa Europa. Buongiorno, buon sabato da Giulia Crivelli, benvenuti alla nostra rassegna stampa europea. Questa settimana volevo iniziare non perché manchino le notizie molto più serie o anche drammatiche, ma per rendere omaggio anche un po' a Radio 24 e a Marta Cagnola in particolare, che segue l'Eurovision da sempre, e quindi volevo iniziare proprio da un articolo sull'Eurovision, che è questo festival di Sanremo europeo, potremmo dire, perché sul New Statesman, che è un settimanale del Regno Unito, è apparso un lungo articolo che poi trovate su Internazionale, tradotto La geopolitica dell'Eurovision. L'ha scritto Helen Lewis e ci spiega che si tratta di molto di più che un evento musicale. Questo Eurovision Song Contest è una radiografia definita spietata dalla giornalista britannica dell'Europa di oggi. Tra l'altro ho scoperto, parlando con Marta ma anche con altri colleghi, che forse da noi non è certo seguito come il Festival di Sanremo. Quest'anno, vabbè, c'è stato molto, magari un pochino più di interesse perché c'era la giovane Michelin come partecipante per l'Italia, però in realtà ci sono altri paesi, specie del Nord Europa, che lo seguono proprio molto assiduamente. E allora scrive questo settimanale britannico: l'atteggiamento dei britannici nei confronti dell'Eurovision Song Contest è molto più travagliato di quanto meriti uno spettacolo così pop. Per loro la musica prodotta nel resto del continente è stata riassunta da Anthony Lane in un articolo pubblicato sul New Yorker nel 2010. Il pop europeo è stato creato dal grande dio dell'immondizia e l'Eurovision è il suo tempo. In realtà però non è proprio così, c'è un po' di snobismo in questa definizione data da Anthony Lane, che è un grandissimo critico del New Yorker, però forse gli americani sulla musica pop, visto che tante altre cose le hanno inventate gli europei e non loro, in ambito culturale e non solo, forse sulla musica pop vogliono appunto stabilire un primato e quindi disprezzano un po' tutto quello che è europeo. Ma è molto interessante questo articolo, appunto, se lo volete leggere lo trovate su Internazionale. Passiamo a argomenti molto più seri, a una questione di cui sicuramente parleremo molto anche nei prossimi giorni, nelle prossime settimane, che è quella della Grecia e del debito greco. Tageszeitung, che è un quotidiano tedesco, ha pubblicato un editoriale che si intitola Il debito greco finisce in farsa. La battaglia sul debito della Grecia all'interno dell'Eurogruppo sembra confermare la famosa frase di Karl Marx, secondo cui la storia si presenta due volte, la prima come tragedia, la seconda come farsa. Come un anno fa, i creditori sono in disaccordo e parlano dei problemi di Atene per distogliere l'attenzione dalla propria inettitudine. Invece di sbloccare subito la nuova tranche di prestiti, hanno rimandato le speranze di Atene al 24 maggio. Il premier greco Alexis Tsipras avrebbe buone ragioni per alzare la voce. Ha bisogno urgente di soldi, tanto che ha dovuto far approvare durissimi tagli alle pensioni che hanno suscitato grandi manifestazioni di protesta. E invece si dice soddisfatto. Finalmente i ministri delle finanze europee hanno parlato di un alleggerimento del debito. Atene è stata premiata per i suoi sforzi, ha esultato il leader di Siriza. Ma in realtà, appunto, è un po' una risposta così dovuta a quello che sembrava uno spiraglio, ma la crisi della Grecia e soprattutto l'accordo sulla rinegoziazione del debito è molto al di là da venire. Sapete che c'è chi preme, come la Germania, per rispettare tutte le scadenze, e c'è chi invece preme per ristrutturare il debito, che significa tagliarne una parte, cioè dire alla Grecia: sì, il vostro debito originale era questo, capiamo che non lo riavremo mai e quindi tanto vale accordarci su una cifra minore. Vi segnalo, sempre grazie a Internazionale, un articolo apparso sulla Gazzetta Wyborcza, che è un giornale polacco, dove si parla delle proteste che ci sono state nel paese contro il governo. Sono state nella prima parte del mese di maggio, con 240.000 persone, pensate, quindi una di quelle cose che proprio, delle tante cose che succedono nel mondo, che ci perdiamo perché così non sembra il caso, o magari non ci sono le persone in loco per poterne parlare. In ogni caso, appunto, 240.000 persone a Varsavia, quindi in una sola città, in un'unica manifestazione contro il governo nazionale conservatore guidato dal premier Beata Zizlo, del partito, l'abbiamo nominato spesso, specie conto quando aveva appena vinto le elezioni, Diritto e Giustizia. Pensate che è stata la più grande mobilitazione dal 1989, cioè quando ci sono stati tutti poi i moti democratici che hanno portato poi al distacco completo della Polonia dal blocco sovietico nel 1989, poi non dimentichiamolo mai, è anche l'anno in cui è caduto il muro di Berlino. Ma a proposito di Germania, anche in Germania ci sono, certo, la Germania resta la locomotiva d'Europa, la Germania grande esportatore, la Germania che tutto sommato è il paese europeo dove anche la disoccupazione giovanile ha i dati migliori rispetto ad altri come Francia e Italia, purtroppo, però ci sono anche tanti problemi. Per esempio la crisi del latte, di cui in Italia abbiamo parlato moltissimo con tutta la questione mai risolta, tutto sommato, delle quote latte e quindi del sostegno agli allevatori. Beh, i produttori di latte sono in crisi anche in Germania, tanto che appunto si fa anche un paragone con la situazione in altri paesi europei e la FAZ, la Frankfurt Allgemeine Zeitung, spiega che si aggrava la crisi dei produttori di latte in Germania perché il prezzo è crollato per la prima volta sotto la soglia un po' psicologica dei 20 cent di euro a litro e quindi un calo del 30% nel giro di poche settimane. In alcuni Länder della Germania, cioè gli stati in cui è divisa la Germania, che sapete è un paese autenticamente federalista, le trattative fra produttori e commercianti hanno avuto come esito un prezzo di 18-19 cent a litro, il che significa meno del prezzo di produzione. Quindi anche in questo caso grandissima crisi perché appunto riescono a recuperare soltanto una parte dei costi che sostengono gli allevatori del latte in questo momento in Germania. Torniamo a un altro argomento che trattiamo spesso e che continueremo a seguire, inutile dirlo, da qui al 23 giugno, e cioè la Brexit. Il 23 giugno, come sapete, nel Regno Unito si terrà questo referendum che il Premier Cameron forse non avrebbe voluto fino in fondo indire, ma quando poi si è reso conto che gli euroscettici all'interno del suo paese crescevano e alla fine comunque pur essendo alle ultime elezioni politiche pur essendo uscito rafforzato ha comunque deciso di indire questa consultazione popolare e secondo la BBC che tiene sott'occhio come quasi tutti i media britannici e non solo i sondaggi in questo momento il sì alla permanenza nell'Unione Europea quindi il no alla Brexit sarebbe in leggero vantaggio ma ricordiamo che come diciamo sempre questi sondaggi evidenziano anche come ci siano tantissimi indecisi e che quindi saranno poi quelli alla fine a determinare l'esito del referendum. In ogni caso, in questo momento la percentuale che già oggi dichiara di voler votare sì alla permanenza nell'Unione Europea è leggermente più alta. E da qui, spiega la BBC, la sterlina ha subito reagito, la sterlina che si era molto svalutata ed è un segno in generale di debolezza del paese o dell'economia o della situazione finanziaria, ma anche politica di un paese, si era molto svalutata negli ultimi mesi, da quando si è cominciato seriamente a parlare di una Brexit, la sterlina invece è fortemente risalita. Negli ultimi mesi la valuta britannica, scrive la BBC nel suo sito online e poi naturalmente il servizio è stato ripreso in televisione, aveva patito pesanti deprezzamenti proprio a causa di questo rischio Brexit. Le maggiori istituzioni finanziarie internazionali, lo ricordiamo, hanno messo in guardia dalle ricadute economiche che deriverebbero da un divorzio con l'Unione Europea. Il Financial Times anche a sua volta ha affrontato il tema della Brexit da un angolo leggermente diverso e secondo alcuni studi ha spiegato che se davvero ci fosse questa Brexit i prezzi delle case nel Regno Unito e in particolare a Londra che è una delle città con i prezzi più cari a metro quadro sia per gli affitti che per le vendite del mondo potrebbero crollare di un valore pari a 7.500 sterline circa 10.000 euro al cambio attuale e tutti gli agenti immobiliari quindi l'Association of Residential Letting Agents e anche la National Association of Estate Agents sono molto preoccupati. Si fa, dico così per inciso, che molti commentatori hanno anche messo in guardia negli ultimi tempi dal dare troppo peso alle opinioni o di istituzioni finanziarie o appunto di associazioni o di lobby, perché se l'antieuropeismo è soprattutto radicato anche in un certo modo di fare politica in modo populista, facendo appello un po' alla pancia degli elettori, come si dice spesso anche in Italia, ebbene questi appelli di lobby, istituzioni, eccetera, rischiano addirittura di essere controproducenti, magari basati su dati veri e fatti in buona fede, ma rischiano appunto di far aumentare il fronte di chi la Brexit la vuole per davvero. Un'ultimissima segnalazione, perché il tempo come sempre è pochissimo, sempre da Financial Times, una indiscrezione secondo la quale Netflix e Amazon potrebbero essere costretti a destinare almeno il 20% dei propri cataloghi e film a film e show televisivi europei, perché sapete che l'Europa è un grandissimo mercato per Netflix e Amazon, però sostanzialmente ci vendono prodotti americani, e questo potrebbe cambiare, ma forse i consumatori finali vogliono prodotti americani. C'è sempre questo strano gioco tra offerta e domanda che è un po' un problema irrisolto. Era però l'ultima segnalazione per oggi. Ancora un buon sabato da Giulia Crivelli. Rassegna stampa Europa. In collaborazione con Euronet Plus.